Attenzione Giovanni, Ciucucciù, Marmitto sì. Graziano. Dimmi. Mi senti? Sì, che ti sento. Male ti sto arrivando. Vabbè, anche sì. Graziano. Non ti sento più. Non mi senti tu? Non ci. Ehi, mi senti? Caduto sì. Me lo be. Beh, me lo dici, carino. Mi senti a me? Ehi, ti sento. Ah? Ti sento. Non ti sento più, esci a tratto. Sì. No, non stai uscendo, sempre abbastanza. Guarda, vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui già ti sento. Non c'è nessuno. No, acceso adesso. Anche io l'ho acceso adesso perché era sotto carica. Ma mi sai non venire su. Boh. E Pomponi ho sentito, sì. Leoci. Mi senti, grazie. Ogni tanto sparisci, prova. Boh, non lo so da cazzo c'è questo che merda, boh. Ma cos'è col gommino come il mio? Non stai uscendo. Non stai uscendo. Vabbè. Adesso sì. Adesso che questo gommino non è. Un po' in mezzo al QRM ti sento. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Negativo. Negativo. Non sento più, Leonci. No. Niente. Ha quasi tutto. Sta uscendo tutto a tratti. Buttaci tutto, grazie. Chi è? Ebbe Antoni. Ebbe grazie, ha quasi tutto. Prova. Prova, prova, con se zaino prova. A te ti sento, le uccido tutto a tratti. A seconda dove si mette Giuseppe, capito? Se si mette da una parte parla con me, se si mette dall'altra parla con te, il discorso è quello lì. Dipende dove si mette. Adesso io stavo guardando questa roba qua, mi sa che subito mi rientro che è un nuvolone d'eva. Fa poco piove, te lo dico io. C'è una nuvola d'acqua. No, la vanno dentro questa roba, là. Già ti chiamo io, Antoni. D'accordo, Giuseppe, ci sei. Giuseppe è sparito. Pomponio. Aspetta, il tempo fatto entra nessa roba, non fare di l'aria. Cazzo, c'è poco è nero fuori, non ti fidi a dare a fare la passeggiata in moto? Ho fatto il tempo, sta piovendo. No, qua no, qua ancora no, ma è tutto nero. Qua sì, è già il tempo in tempo. Mi è stato l'ultimo pezzo, brum brum brum, ogni goccia. Pensare va dentro, il terrazzo me ne è entrato. Figurati, prova a chiamare Giuseppe se ti sente. No, la 27 ce l'ho spenta io. Sul PMR era, però non stavo facendo bene. Era in casa ad Uniti, la signora esce in livello. Oh, se già esce bene, il problema è che quando si mette in un punto, a te arriva bene da una parte, a me mi arriva bene dall'altra, capito? Con gommino, il discorso è quello lì. E infatti io ho provato a accostarmi nel terrazzo vicino alla lavatrice e l'ho sentito. Poi però spariva, ho cercavo un altro punto vicino alla ringhiera, lo sentivo però tutto a tratti, poi non la gente subì. E ho sentito a te che ho fatto chiamata. E infatti ho sentito te parlando con lui e ti ho detto lampada di luce per quello. Capito? Aspetta di poco è nero. Crocro, mi sa che fulmina stasera. Ehi, uno schifo questo tempo, eh. Ah, mi credi, ero un tentaro, a chi ero con un gonfietto abusato. Ma io poi fa la gonfietta. Io sono a mal di collo, figurati, tu sono uscito una mezz'ora fa, sono a mal di collo. Ma io mi ho messo la felpa, a chi era Marietta, mi dentro casa sta bene. Però magari come ero seduto fermo con il computer, mi ha pigliato lo freddo, ma io poi subito la cuffia. Però c'è freddo, aveva messo con congelato mi, i trendini che sta a Roma, sono ghiacciato. E poi sono controllato il telefono, 17 gradi, a Sassari, a me pare ce ne sono 12, non di più. No, già c'è freddo, l'aria è ghiacciata, pure stamattina, quando me ne sono cominciato a resetti, mi sono cacciato da lì, mi ha congelato un freddo, ha detto roba a manicomio. E freddo c'è freddo, la verità, perché sono uscito io. Un'oretta fa, c'avevo freddo io, anche con giubbottino, figurati. Perché c'è anche questo vento che ha regato tutti i nuvoli ed è ghiacciato. E io già lo so, beh, già ho staccato il piede della 27 per sicurezza, non sarebbe di venire in mente di scaricare dopo. No, io li lascio sempre staccati, i cavi dalle radio, non li lascio mai antenna attaccata. Oh! Stacca tutto, stacca tutto! Sì, tutto, ti penso di dirti, bravi! Buonasera, buonasera anche Antonello! Buonasera Marino! Com'è il tempo? Qua sta diluviando! E su da te? Il sole? Qua ancora no, ma è nero, sai vuol dire nero? Proprio il cielo nero nero come il carbone c'è. Boh, qui non si capisce nulla, L'avevo tagliato l'erba, alla che si torna, avanti, grazie. Dovevi aspettare tu che ci passasse maggio, a giugno l'erba la dovevi tagliare, ma che scema, che effetti che ti dici? Adesso con cresci veloce, va? Vabbè, ma voleva fatto, grazie, faceva il schifo. Voleva fatto, hanno preso gli animali, preso, girato tutto a terra, tutto quanto. Passa la motozappa, adesso se cresce nuovamente, anziché passare la motozappa, passo il rasaio, ma ciccia. Mi porto un paio di giri e lui è a posto. Lei è Antonetti. Allora, mi è cominciato a piovere qua, me. Adesso. Perché te la sto soffiando io da qua, quella nuvola. Prima Marino l'ha soffiata da me, adesso io l'ho soffiata a te, così impari, vero Marino? E allora, cos'è? Tutto a noi là, fa anche un po' attento a me. Non ho capito, bobo. Antone, io sono sul 34, c'è il mondo, c'è lì. Lo so che c'è il mondo, c'ero fino a poco fa. Sul canale 45 stavo parlando con quello di, come si chiama, quello portoghese, Mario. Poi c'era uno e l'ho chiamato e mi ha risposto subito. Se non fa un casino, è troppo QRM, preparazione, uno sopra l'altro, là ve la vai. Eccolo lì, uno sopra l'altro, sono su 34 e mi sono invinti, va vedere, tutti uno sopra l'altro. Prendi una mucchiata io, avanti, grazie. Stanno facendo una mucchiata. Sì, ma oggi non si capisce nulla, hai capito? Non si capisce nulla oggi, è un macello. Vero Antonello? Vero. Purtroppo è così. Guarda che forse domani mi avvicino, ti faccio un copo al telefono, domani sono le visite, ciò. Poi dove salire a zona di Via Fiorenzetta, fa una commissione. Se mi ricordo ti faccio uno squillo. Se mi ricordo, se non ci vediamo. Vero, grazie. Assedi fischiano, guarda. Ti sta chiamando, mica, sta sentito là. Ehi, e rispondi o no? Ehi, allora fruscelli, dai, non lo sa. Lascia un macro, lascia fruscelli, avanti, Antonio. Chiedi se vuole fare l'amore con te, con Control. Ehi, buon gustaio, ecco lì, maledetto. Buon gustaio, no? Cazzo di vento, che vento. Ma vento freddo, mi. fratello, suo marito. La temperatura è un casotto. Boh, da giovane non viene da niente. Ehi, tempo feo, tu fino al 26 mi sembra fa tempo brutto. Ehi, generale, tutta la chieda, fino al 26. Così mi hanno detto, boh. Che piccina, ma la vedi che non ne fa se che sanno. Oh, dopo è vero quasi schifo. E allora dico faccio una piscina, mi faccio bagno in piscina io. Roba mattica, oh, non se ne comprende più nulla, Ormai le stagioni non esistono più, grazie. Stagioni non esistono più ormai. Cambia il tempo da un momento all'altro. Ehi, ma quando fai una dimetta, così fai male, mi. E domani, domani farà l'aria, non andare. Non mi piace, bisogna che salgo su e risutruneggi un po' con la reci, a cacche d'uno. Non passa, grazie a che chi sta ancora, non passa. La roba la vedo, un fumo. Avanti, Antonio. Allora, comunque fa male il tempo così. Primo giorno, cioè ieri caldo da crepare e oggi un freddo da uscire con giubbotto. E il golfo, buh. Sono già mal di collo, figurati. Insomma, la mattina devo uscire presto presto al Dinamo, speriamo di fare veloce, così me ne... per di più me ne salgo subito. E se c'è un freddo così, crocro. E quello che ti frega, non hai capito? Ti scopri, ti bisticheggia. Io ormai la voce ho sempre solito fai, leggero, leggero. Fai leggero, sì, ma non ti faccio passare un freddo, un peso, dai. Tutto qua. Grazie ai riprendi, mi sta spostando che mi sta chiamando il mio nipote, Martino, dai, grazie, torno subito, dai. Ehi, ehi, oggi Luca non me ne ha mandato un messaggio, boh, devo essere travagliato, tutto travagliato lì. Cioè, sta piovendo lì, ci sono fulmini dove c'è lui, altro che lavoro sta facendo, mi pare che quello sarebbe stato veloce a Sassa, te lo dico io. Perché sta grandine, ho visto la grandine che sta facendo su, la neve a 2000 metri, ce n'è più dell'inverno ne ha fatto in un giorno. Già l'ho visto, vabbè, però quel lavoro che stava facendo è interno, a imbianchinare una palazzina tutto all'interno, però, per adesso. Ah, allora se sta imbianchinando tutta la palazzina all'interno già va bene. Se è fattibile che fa quel lavoro lì, si incassa il soldo e poi se ne torna a Sassari. Ehi, no, quando finisce lì si è procurato il lavoro e rimane lì. Io che non vedo nulla. Sì, qui cosa c'è? Non c'è nulla. Se fai la palazzina non ti pagano nemmeno, già lo sai, qui ti bruciano, qua in Sardegna. Come fai a lavorare? Fai un lavoro e non vedi più soldi, perché la maggior parte di quelli che sono nei condomini sono abituati a non pagare. Chi su di no, ma lo vedi già gente come si deve, già lo paga. E poi è pure umana la palazzina, perché mi ha mandato le fotografie, delle camere, il giardino, la veranda, il pian terreno, primo piano, secondo piano. Mansarda, è enorme, è una palazzina grande. Sì, allora già va bene, se sto facendo in bianchino in quelle palazzine nuove che stanno costruendo già va bene. Se passa da un lavoro all'altro sta bene lì. Ha voglia, già ne ha lavoro. Già lo credo, tanti no, chi non vende. E poi anche se ce l'è da fare. Si chiamano a tratti, due di sì e una no, ma ve la vai. Io gliel'ho detto, se buschi lavoro, scatti in chiavi, tanto io che vai la fame. Ah beh, quello sì, gli conviene fare così. Se trova lavoro, si vende la casa che c'ha qua, se ne rimane su, e sta bene. Almeno ha finito di rompersi le balle, capito? Stare da una cosa all'altra, passeggiare da una cosa all'altra, almeno si fa una famiglia stabile e sta bene. Già lo credo. Io perché oramai quando l'ho trovato a Genova il lavoro fisso, il cantiere navale, oramai non faccio più. E lui a cui vado con tre figlioli, cosa mi ne dovevo andare in da? E non ci sono andato. Però sarei stato bene anche lì, a Genova, in cantiere navale. Ma ho bisogno che andato la busca. E per dire, mi hanno brigato a andare, ma non bisogno che andato perché lì c'era da fare lavori di falegname, verniciatore, tutti questi lavori così, capito? Ma non bisogno che andato. E cosa va a dire? Oramai, ha detto, no, magari sei stato più giovane, sì. Vabbè, sei stato più giovane, sei stato disposto all'inverso. Ma quando mi l'ha detto oramai, quando mi l'ha detto, mi mi pare un sincanno, andammi in Italia, travagliando, non mi conveniva più. Hai fatto bene, hai fatto almeno, sei rimasto, se ci mancavano 5 anni, poi sei andato in pensione e va a far cuffia. Infatti, ma se mi era capitato dalla prima di aver andato, anche se fai un conto che mi mancavano una decina di anni, ci sarei andato sì. Ma a chi ne dà i figli che non so come interessi i figli no. Chi sono da bignini, uno stipendio 1050 euro, prendevo l'ultimo stipendio 1050 euro. Dopo 18 anni e mezzo che vivi, ma ve la fai? Ah beh, quello sì. Dopo 18 anni. È poco. È poco sì, perché scatti da anziani te non me ne avevi avuto, non hai compreso. Ah? Aspetta, c'è il telefono. Ehi, è d'accordo. Antonello! Non lo chiarire, dai. Dai, chiudo che è venuta gente, ci sentiamo domani, dai. Ciao! Ok, ciao, ti saluto la signora, ci sentiamo domani, dai. Avanti Antonello. Saluto il tizio, lo senti, ma. Ciao, a domani. Ciao. Ciao, grazie. E chi è che sta andando via? Io sono Pietro, che è venuta gente, Antonio. Ehi, ciao, grazie. Ci sentiamo domani, allora, dai. Ti chiamo domani mattina. Sì, alla palazzo. Già sono qua. Ciao, a domani. Sì, già, ciao. Ma no, quello lì non l'hai sentito, no? No, mi ha mandato un messaggio a cosa, non mi risponde Antonello, non ho capito perché. Cazzo, Signora, che lo becco adesso, deve essere che sta lavorando a cosa, perché ce l'ha spento. In pratica su... Il coso ce l'ha attaccato, il messenger. Di solito quando c'è mi segna il pallino verde, invece no, non c'è per niente. A me non l'avete telefonato. No, l'ho fatto. C'è Graziano, vedi? C'è Rita, c'è cosa, lo vedo dov'è. Già lo pesco prima o poi. Sì, ok, dai, va bene, rimani a porta un po' mantone, che facciamo cosa, dai. In caso ci vediamo domani, ciao te. Sì, è d'accordo, dai, e rimango ad ascolto anch'io, ci sentiamo domani. D'accordo, ciao. Sì, ciao.